Buongiorno Chiesa, come stiamo? Che bello, io sono così contenta di essere qui. E devo dirvi una premessa. Ieri sera stavo parlando con il nostro amato pastore e stavo dicendo: pastore, speriamo che va bene domani, sai, perché il giorno prima della predica senti sempre un po' di quella responsabilità, che vuoi che la parola di Dio sia trasmessa come lui l'ha trasmessa al tuo cuore. E il pastore mi ha detto: noi mi farai un ottimo lavoro, solo ricordati questo, non gridare con l'emoticon dell'orecchio. E io cercherò di non gridare. Quanti dicono amen? Ok, vedo proprio che sì. C'è un desiderio comune in questa chiesa, che noi non gridi. Però sono davvero così contenta e non vedo l'ora di trasmettere anche a voi, che siete la mia famiglia così preziosa e così amata, quello che Gesù ha messo nel mio cuore, che è un messaggio molto molto semplice. In realtà analizzeremo un solo verso della sua meravigliosa parola, però io spero davvero che questa parola possa causare nel tuo cuore quello che ha causato nel mio cuore, cioè il desiderio di essere ancora di più trasformata a sua immagine e somiglianza. È il desiderio davvero che in ogni situazione, in ogni circostanza, noi possiamo davvero mettere Gesù al centro, come abbiamo detto, come stiamo dicendo mattina. Questa è la cosa. Siamo pronti? Benissimo. Quindi andiamo a leggere insieme. Giovanni 8:12. È un versetto che molti di noi forse sanno, forse abbiamo ascoltato centinaia di prediche al riguardo, ma io prego per una nuova rivelazione per ognuno di noi. E dice così: e Gesù di nuovo parlò loro dicendo: io sono la luce del mondo, e chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà luce eterna. Gesù dice: io sono la luce del mondo. Non solo dei giudei, non solo dei gentili, non solo dei modugnesi, non solo degli italiani, ma io sono la luce del mondo. E chiunque mi segue non camminerà nelle tenebre, perché avrà la luce della vita. E voglio spiegare un po' il contesto di questo verso, così che possiamo assaporare proprio la parola di Dio nella sua totalità. Questo Gesù stava parlando nel Tempio, stava parlando ai farisei, che erano un po' i religiosi del tempo, e lo stava facendo in occasione della festa dei tabernacoli. Ed è un discorso in realtà che incomincia, noi abbiamo letto Giovanni 8, questo discorso però incomincia in Giovanni 7:19, e poi si interrompe, fatemi dire così, e mettiamo questo verbo interrompe tra virgolette, belle grandi, si interrompe a causa di un incontro che Gesù fa, l'incontro con l'adultera, no? Quando c'era tutta quella folla di persone che era pronta a lapidare questa donna che era stata colta nell'atto dell'adulterio, colta nel fare un peccato, e tutti volevano accusarla. E Gesù cosa fa? Gesù stravolge la situazione, come sempre. Dice: chi non ha mai peccato, che si senta libero di scagliare la prima pietra. E tutti quanti, partendo dalle persone un tantino più in età, finendo con quelli più giovani, andarono via. E Gesù disse: donna, chi è? Chi è che ti stava accusando? La donna si gira, si guarda intorno e dice: non c'è nessuno, sono andati via. E Gesù dice: neanche io ti condanno. Ora va e non peccare più. Quindi questa parentesi abbiamo, no? Questa interruzione del discorso che Gesù stava facendo ai farisei nel Tempio, che poi riprende subito dopo questo incontro con la peccatrice in Giovanni 8:12. E Gesù stava parlando, stava raccontando della sua identità, stava raccontando della sua missione, stava raccontando ai farisei della sua intima relazione con Dio, stava raccontando del fatto che lui e il Padre erano un tutt'uno e che tutto quello che Gesù diceva e tutto quello che Gesù faceva era motivato ed era facilitato dal Padre, dalla relazione intima e personale che Gesù, Dio Figlio, aveva con Dio Padre. Gesù stava raccontando, stava parlando, non stava in quel momento facendo nessun miracolo, non stava in quel momento operando nessun prodigio, nessuna liberazione, nessuna guarigione, eppure il risultato del suo discorso lo troviamo in Giovanni 8:30, dove dice: mentre egli diceva queste cose, molti credettero in lui. Gesù stava solo parlando, si stava raccontando e molti credettero in lui. Molti lo riconobbero come il Figlio di Dio, come il Messia, come Salvatore. Ed è questa il mio desiderio più profondo. È questo l'obiettivo principale di questo messaggio. Che ascoltando le parole che Gesù ci vuole dire, che leggendo la sua parola, molti credano in lui. E non dare per scontato, va bene, io già ci credo, che molti credano in lui di più, perché c'è sempre di più da scoprire, c'è sempre di più da arrendere, c'è sempre di più da essere trasformati dalla sua parola. Molti di loro credettero, e questa è la mia preghiera per te e per me, che attorno alla sua parola, che attorno alla sua verità, che è l'unica verità come vedremo, noi possiamo arrendere ancora di più i nostri cuori a Lui e che possiamo credere che solo Lui è Salvatore, che solo Lui è colui che può guarire, che solo Lui è colui che può perdonare, solo Lui è colui che può dare un senso ai tuoi giorni. Sì? Amen? Quindi Gesù dice, come conseguenza tutti credettero, Gesù dice: io sono la luce del mondo. E questo è, per chi forse ha letto, no, il libro di Giovanni, questo è uno dei sette io sono che Gesù dice, che Gesù rivela di se stesso. Gesù dice: io sono il pane della vita, chiunque mangia di questo pane non avrà più fame. Gesù dice: io sono la porta, chiunque la varcherà sarà salvato. Gesù dice: io sono la resurrezione e la vita, io sono la via, la verità e la vita, chiunque crede in me. No, nessuno andrà al Padre se non per mezzo di me. Gesù dice: io sono il buon pastore. Gesù si rivela in tutta la sua maestà, in tutta la sua gloria, e qui dice: io sono la luce, che in realtà è la risposta, è la verità più importante che un mondo nelle tenebre poteva ricevere. È la risposta che più ha cambiato la vita di quelle persone, la nostra vita, che la stiamo ascoltando questa verità, che siamo ciechi, che siamo nelle tenebre, e nelle tenebre, nell'oscurità, nel peccato, nelle situazioni difficili, nelle situazioni non sottomesse ancora a Dio, Gesù dice: io sono la luce del mondo. Io posso portare luce nella tua vita, come ho portato luce nella vita di questi farisei più di 2000 anni fa. E io capisco due cose da questa affermazione che Gesù ha fatto: io sono la luce. Capisco che Gesù è l'unica luce. Non c'è nessuna luce che può essere paragonata a Lui. Non c'è nessuna luce che può sostituire la luce che Gesù è nella mia e nella tua vita. Non c'è un'alternativa, non c'è neanche un bagliore che si può avvicinare alla maestosità della luce di Gesù. Sapete, noi a casa, qualche tempo fa, allora posso dire perché mamma e papà non ci sono, abbiamo cambiato tutte le lampadine. E siamo passati dalle lampadine incandescenti alle lampadine, indovinate a che cosa? A LED. Sì, queste lampadine che tutto sono, che tutto fanno tranne che luce. Cioè tu accendi la luce e semplicemente non cambia niente. E viviamo in questa stagione della nostra vita nella penombra. Permanente nella famiglia Viale vige la penombra. Però mio padre è contento perché io ho questa brutta abitudine di lasciare sempre tutte le luci accese. Cioè io sto in camera, poi vado, me ne vado proprio di casa e la luce della mia camera rimane perennemente accesa. E quindi papà ha preso la decisione di dire basta a questo spreco economico ed energetico e quindi siamo passati alla lampadina a LED. L'unico problema è che la luce che quelle lampadine fanno, la luce che quella lampadina emette, non ha niente a che vedere con la luce che prima c'era in casa mia. Ed è un esempio molto stupido, divertente forse, che però ci fa riflettere su quanto la luce che Gesù è non può essere paragonata a nessun'altra cosa. A nessun'altra luce che forse si vuole insinuare nella nostra vita e vuole sostituire l'unica fonte della vera luce. Tutte le luci che illuminano la nostra vita, Chiesa, che non sono Gesù, sono fasulle, sono dei bagliori effimeri, sono dei bagliori momentanei. E la Bibbia, tutto quello che è luce nella nostra vita, che non è Gesù, la paragona alle tenebre. E alle tenebre più terribili, alle tenebre più oscure. Leggiamo insieme in Matteo 6, dal 22 al 23. E qui è Gesù che parla sempre. E dice, la lampada del corpo è l'occhio. Se dunque l'occhio è puro, tutto il corpo sarà illuminato. Ma se il tuo occhio è viziato, tutto il corpo sarà tenebroso. Se dunque, ascoltate qui, se dunque la luce che è in te è tenebre, quanto grandi saranno quelle tenebre? Quanto grandi saranno quelle tenebre? Qualunque cosa che sta sostituendo la luce che Gesù è nella tua vita, sono tenebre. E quanto grandi, quanto profonde, quanto dolorose, quanto ripugnanti sono quelle tenebre. E allora la mia domanda per me e anche per te oggi è: qual è la luce che in realtà ti sta ingannando? Qual è, che cosa stai seguendo nella tua vita tutti i giorni? Che cosa stai seguendo che non è Gesù? Che cosa stai adorando nella tua vita? Stai adorando solo Gesù? Stai ubbidendo solo a Lui? Sei, siamo sottomessi solo alla luce che è Gesù? Oppure nella nostra vita ci sono bagliori alternativi? Perché se ci sono bagliori alternativi, io ti voglio dire, non ti fare ingannare, non ci facciamo ingannare, perché quei bagliori sono per una stagione, ma poi lasceranno il vuoto di nuovo. Anzi, non il vuoto, le tenebre di nuovo, l'oscurità di nuovo. Che cos'è? Che cosa sono questi bagliori? Può essere la fame di carriera, può essere la fame di soldi, può essere la nostra stessa famiglia. Se viene prima la nostra famiglia e poi Gesù, attenzione, perché il dono che Gesù ci ha fatto può diventare causa di tenebre nella nostra vita. Che cos'è tuo marito? E tua moglie? E quel fidanzato che tanto vorresti? E quel lavoro che tanto vorresti? E quella macchina che tanto vorresti? E quel mutuo che hai incominciato 35 anni fa e ancora non l'hai estinto? Che sta diventando la tua luce, che sta diventando la tua motivazione di vita, che sta guidando le tue scelte, che sta guidando la tua generosità. Che cos'è? Quali sono questi bagliori momentanei che stanno sostituendo l'unica vera luce che è Gesù Cristo? Noi non vogliamo essere una chiesa che si fa distrarre da questi lampioni che prima o poi si fulmineranno. O no? Noi vogliamo e siamo una chiesa che è innamorata e che ricerca e che segue l'unica vera luce di questo mondo, l'unica vera luce della mia vita e della tua vita. Amen? Gesù, sto gridando, pastore, perdonami. Gesù dice, io sono la luce del mondo. E Gesù qua, attenzione, non parla della luce come qualcosa di esterno, di esteriore a lui, che magari ha in comune con altre cose e che ci può dare. Mi spiego meglio. La luce di cui Gesù sta parlando non è un qualcosa che lui ti può dare. Gesù dice, io sono la luce. Cioè vuol dire che all'infuori di me, tu la luce non la puoi trovare. All'infuori di me c'è il buio. Non è un qualcosa che ricevi. Non è un qualcosa che Allah ha e ti può dare pure lui. Non è un qualcosa che una filosofia, la filosofia del momento ti può dare. E quindi la puoi trovare nei libri, la puoi trovare in queste credenze New Age, la puoi trovare in quello che fa moda. No, Gesù dice, io sono la luce. All'infuori di me c'è il buio. All'infuori di me ci sono delle tenebre. E quanto grandi sono quelle tenebre, dice Gesù. All'infuori di Gesù non c'è neanche un tiepido raggio della vera luce. Forse c'è l'apparenza di splendore, ma è solo un abbaglio. Allora io ti prego, non viviamo in quell'illusione, non viviamo in quell'abbaglio temporaneo, ricerchiamo la vera luce, adoriamo la vera luce, viviamo per la vera luce. È questo il nostro desiderio, Chiesa? Puoi farmi un cenno con il tuo capo? Bellissimo, questa è la prima verità. Gesù è la luce, solo lui. La seconda verità è che è una deduzione, no? È che tutto il mondo ha bisogno di luce. Se Gesù dice, io sono la luce del mondo, e la luce si trova solo in me, sono solo io, vuol dire che se non in me, il mondo è nelle tenebre, è nel buio più totale. E il mondo, attenzione, non è solo chi ti sta accanto, non è solo chi sta fuori, è anche principalmente, ma questo messaggio parla a noi, ok? Quindi non dare per scontato. Non diamo per scontato, io mi sono sforzata di non darlo per scontato, che questa cosa già la so, la posso ritenere già fatta e ponderata. Senza Gesù, noi siamo nelle tenebre, che ce ne rendiamo conto meno, perché poi è particolare, no? La stagione nella quale viviamo, dove tutto un po' è relativo, no? C'è questo relativismo che compromette e macchia tutto. Allora dici, vabbè, ma io in realtà sono una buona persona e quindi io vivo nella luce. La luce non sono le opere, la luce è Gesù. Vabbè, ma io in realtà vado in chiesa, do la decima, servo. Cioè, se non sto io nella luce, voglio dire, Noemi, di cosa stiamo parlando? Quali sono quelle aree del nostro cuore che noi sappiamo che la sua luce non vige sovrana? È di quello che stiamo parlando. E ci sono due livelli di tenebre. Ci sono quelle persone che vivono nelle tenebre perché la luce non l'hanno mai ricevuta. Ci sono quelle persone che vivono nell'oscurità, nelle tenebre, perché non hanno mai saputo, non hanno mai potuto accettare la verità che Gesù è il Salvatore, la verità che Gesù è la luce del mondo ed è anche la loro luce. Queste persone vivono nelle tenebre perché non hanno avuto l'occasione di dire sì a Gesù, voglio accettare la tua luce. E sto parlando del mondo musulmano, dove la nostra Marta sta andando, del mondo musulmano che vive, che crede e che si sforza di servire un Dio che che non esiste, che non è il vero Dio. Sto parlando di tutti quei popoli in Africa, in Asia, che non sono mai stati raggiunti dal Vangelo, hanno bisogno del Vangelo. Sto parlando del mio collega di lavoro, del tuo collega di... non ce l'ho un lavoro. Del mio compagno, del tuo collega di lavoro. Sto parlando della tua famiglia. Sto parlando dei nostri amici che hanno un'idea di Dio che è completamente compromessa dalle tradizioni, dalla religione, da queste bugie che il diavolo ha insinuato dicendo che Gesù è lontano, che Dio è solo un giudice cattivo, invece Dio è pieno d'amore e non vede l'ora di illuminare la vita di queste nostre persone. E noi siamo la Chiesa, noi siamo lo strumento che Dio vuole usarsi per... di cui Dio vuole usarsi per portare luce a queste persone, per portare luce nel mondo musulmano, per portare luce in Asia e per portare luce in via Cornole di Ruccia, dove abito io. Noi siamo la risposta, non perché ce l'abbiamo noi, ma perché Dio ci equipaggia ad essere e per essere quella risposta. È per questo, è esattamente per queste persone che vivono nelle tenebre che noi stiamo qui oggi e che noi facciamo quello che facciamo. È per questo che abbiamo organizzato questo evento natalizio meraviglioso. È per questo che a febbraio avremo una conferenza sulle relazioni True Love. È per questo che alla fine di gennaio avremo questa raccolta miracolosa, dono perché amo. Perché? Perché doniamo perché amiamo. Chi amiamo? Amiamo Dio e amiamo tutte queste persone che saranno benedette dalla nostra generosità, dal nostro dare, perché attraverso quello Dio ci darà la grazia di usare questi soldi in una maniera efficace per poter essere la risposta, per poter allargare questa chiesa, queste mura, per poter invitare quante più persone possibili che vivono ancora in quelle tenebre. E quanto gravi sono quelle tenebre. È per questo che siamo qui, è per questo che apparteniamo alla Chiesa, è per questo che serviamo la Chiesa ed è per questo che diamo i nostri talenti, diamo il nostro tempo e diamo anche il nostro denaro. Non ti fare ingannare da bagliori momentanei, non ti fare ingannare dal fatto che quei soldi ti servono per e decidi tu. C'è una causa più grande. Amen? E la causa più grande si chiama il tuo amico di banco, il tuo collega, tua madre e tuo padre, la tua famiglia. Amen? E a questo proposito vorrei che vedessimo un video che ha solo l'obiettivo di spiegare il perché siamo qui. Quindi quello che ho detto adesso lo vedremo. Ci siamo? Siete contenti? Amen. Vediamo questo video. Che cos'è per te dono perché amo? La possibilità di vivere un miracolo che il Signore ha in serbo per noi come famiglia e per la sua grande chiesa. Il verbo dare a cosa ti fa pensare? Beh, dare a volte può portare gioia, ma contribuire al successo che il Signore ha per la nostra chiesa, come diceva appunto Grazia, per me è qualcosa di molto grandioso e sono molto felice di farne parte. Qual è stata la cosa bella e sorprendente che avete vissuto per questo evento come famiglia? La cosa bella è stata molto sorprendente per noi che il Signore ci ha parlato indistintamente allo stesso modo, dandoci la stessa cifra per cui noi abbiamo donato e ci ha uniti ancora di più nella preghiera. Qual è stata la sfida più grossa? La sfida più grande è stata per me quella di sfidare il Signore, perché come è scritto nella sua parola, mettetemi alla prova, e io l'ho fatto e il Signore mi ha risposto grandemente su questo, per cui mi ha aiutato a dare la decima. Per questo non è stato un peso dare anche il contributo per questo dono miracoloso. Questa occasione mi ha insegnato molto ad avere sempre più fede in quello che è Gesù Cristo, in quello che Dio può fare per noi. Se noi conosciamo un Dio che è capace di guarire, è lo stesso Dio che è capace di provvedere ad ogni nostro bisogno, anche quello finanziario. Questo mi ha insegnato il Signore, a sfidare Lui, a credere in Lui e a credere in quello che è scritto nella Sua parola. Noi come Chiesa contribuiamo al sogno che Gesù ha per la nostra Chiesa e per tutte quelle persone che ancora vivono nelle tenebre perché non hanno mai ricevuto la luce. Sì? Quindi questo è il primo grado, diciamo, il primo livello di tenebre. Il secondo coinvolge tutte quelle persone che hanno ricevuto la luce, ma che l'hanno rigettata o che la rigettano di tanto in tanto, che preferiscono i bagliori, che preferiscono le lampadine a LED piuttosto che la luce incandescente. Queste persone, Chiesa, è stato così difficile accettarlo, però dobbiamo accettarlo perché Gesù ci vuole far crescere, ci vuole migliorare, perfezionare, santificare. Di tanto in tanto siamo noi. Siamo noi che abbiamo ricevuto Gesù, che l'abbiamo riconosciuto come nostro personale salvatore, che sappiamo che ci ama, che abbiamo accettato il suo amore, che preghiamo, che leggiamo la Bibbia. Ma di tanto in tanto ci sono quelle situazioni, ci sono quei pensieri, ci sono quelle relazioni dove la luce non è sovrana, dove Gesù non è ancora sovrano, dove vigono le tenebre, dove il nostro cuore è nella penombra, se non nelle tenebre più cupe. Noi che lo seguiamo, però non in tutto e non sempre. Noi che li ubbidiamo, però ci sono sempre quelle eccezioni che confermano la regola. Allora qui non si parla di regole, qui si parla di una relazione. E nella relazione con Gesù non ci sono eccezioni. Dio vuole tutto il nostro cuore. Dio vuole irrompere come luce nella nostra vita, in tutta la nostra vita, in tutto il nostro cuore, in ogni pensiero, in ogni sentimento, in ogni relazione. Però la Bibbia è meravigliosa perché lo mette così, ce lo dice chiaro e tondo il fatto com'è. In Giovanni 3,19 dice: ora il giudizio è questo, cioè in poche parole quello che sta succedendo nel mondo è questo. La luce è venuta nel mondo. Gesù è venuto, ha salvato il mondo. E gli uomini, io e te, hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. E attenzione, perché Gesù qua ha appena finito di dire che Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato suo figlio Gesù, che ha mandato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non muoia ma abbia vita eterna. Gesù qua sta dicendo: io sono venuto per salvare il mondo e non per condannarlo. Ma davanti a questa verità meravigliosa che può cambiare la tua vita come ha cambiato la mia vita, dice: il giudizio è questo. Io sono venuto, la luce è venuta, ma gli uomini hanno amato le tenebre di più della luce, perché le loro opere erano malvagie. Allora la domanda, non so se è sorta già nella vostra mente, ma per me è stato lampante, ho detto: come è possibile che la luce c'è e io amo le tenebre? Com'è possibile? Non vi è mai capitato di leggere la storia del popolo di Israele, che tu dici: e le ha mandato la manna, e le ha mandato i miracoli, e ha aperto il Mar Rosso, e la colonna, e la nuvola, e tutto, e poi di nuovo, punto a capo. Cioè ci sono veramente tutti i libri profetici, che per me è una sofferenza leggerli, è una sofferenza, perché, mamma mia, non vi sentite così quando leggete i libri profetici e la storia del popolo di Israele? E quando vediamo la nostra vita? Io mi sento uguale. Com'è possibile che la luce si è rivelata nel mio cuore, nella mia vita, e io in determinate occasioni amo di più le tenebre? Le preferisco. Perché? Com'è possibile? Io mi sono data 3 risposte. Perché scegliamo le lampadine a LED? Per piacere, mi potete rispondere? Esattamente. Perché costano di meno. Perché risparmiamo. Ecco perché io le posso lasciare sempre accese. Perché vivere nella luce costa. Costa rinunce, costa consacrazione, costa santità, costa purezza, costa che io davanti al peccato dico no, costa che io mi inginocchio davanti a Dio e dico: Dio, per piacere, aiutami a non avere questo pensiero negativo, aiutami a non criticare le mie autorità, aiutami a mettere te al centro della mia vita piuttosto che me stessa. Costa. Ecco perché è più facile amare le tenebre, il peccato. Perché è più comodo, perché è più facile e perché è più desiderabile. Gli uomini hanno amato di più le tenebre che la luce. E poi perché la luce, quindi, perché è più facile, amiamo di più le tenebre. Amiamo di più le tenebre perché la luce, Gesù, rivela il nostro peccato e ci chiama al ravvedimento. Quando tu stai davanti a Gesù in tutta la sua santità, è chiaro che la sua luce irrompe nella tua vita e mette fuori, fa venire in superficie, mette sotto l'occhio di bue tutte le cose che ti distanziano da Dio. Tutti quei pensieri malvagi, tutti quei desideri impuri, tutte quelle bugie bianche, rosse, verdi che siano, sono bugie. Tutte quelle relazioni non sottomesse, tutta quell'idolatria che c'è nella nostra vita, Gesù, la luce, le fa venire fuori. E tu dici: no, mamma mia, no, è troppo scomodo, mi acceca questa luce. Però vedetela così. Il peccato è come un cancro terminale al cervello, un cancro che incomincia a far ammalare tutto il tuo corpo. Il cancro al cervello, il tumore al cervello, poi prima o poi fa sì che i tuoi polmoni non funzionano, il tuo fegato non funziona, i tuoi arti non funzionano, la tua bocca non funziona, i tuoi occhi non funzionano e ti portano alla distruzione più totale. Questo è il peccato, è un cancro al cervello terminale. Gesù, con la sua luce, te lo fa vedere questo tumore, ma te lo fa vedere quando ancora si può fare qualcosa, quando ancora lui lo può guarire, perché c'è speranza. Chiesa, questa deve essere una bella notizia per te, per me. Puoi dirlo alla tua faccia? C'è speranza. Gesù ci fa vedere, la luce ci fa vedere il peccato, quelle tenebre più oscure, quanto grandi sono quelle tenebre, ma ce lo rivela quando ancora si può fare qualcosa, quando ancora Dio, Gesù, può fare qualcosa, perché lui vuole essere la luce in quelle aree dove ancora vigono le tenebre. Lui vuole. Allora il mio grido per la mia vita e per la tua vita è questo: non ci accontentiamo di vivere in questa penombra. Non diciamo sì al compromesso. Il peccato nella nostra vita non deve essere qualcosa che educatamente scansiamo, cioè manteniamo le distanze giuste. Il peccato lo dobbiamo odiare. Il peccato lo dobbiamo proprio, non lo so, ci deve far ribrezzo. Perché è quel cancro che distruggerà la mia e la tua vita. Però Gesù è venuto per portare speranza e per portare luce in questo. Amen? E pecchiamo perché molte volte non riconosciamo fino in fondo la brutalità della conseguenza del peccato. Il peccato ci fa condurre una vita che è l'illusione di una vita vera, è quel bagliore. Però in realtà non siamo altro che schiavi, dove le sbarre sono le nostre stesse azioni, sono i nostri stessi pensieri. È una schiavitù. Basta ad essere schiavi. Basta a vivere condannati e a fare finta che stiamo bene. Basta, no, ricerchiamo la santità, ricerchiamo la consacrazione, ricerchiamo quella verità che ci rende liberi e liberi veramente. Questo è quello che Dio ci offre, la libertà più assoluta alla luce della sua verità. Non accettare il peccato nella tua vita, non nasconderlo. Se mentre sto parlando tu stai pensando, mo, quest'area nella mia vita è peccaminosa, questo pensiero non lo riesco a vincere, questa dipendenza mi sta schiacciando, allora che cosa ci fai? Fermo, chiedi aiuto a Dio, prima di tutto, chiedi aiuto a noi, chiedi aiuto alla tua famiglia, perché noi insieme, come ha fatto Gesù, non vogliamo, non ci permetteremo mai di condannare, ma vogliamo sostenerti. Vogliamo venire insieme a te davanti a Dio e chiedere perdono. È diventato rosso. Sono alla metà del messaggio. No, scherzo. Che cosa ti sta dicendo Gesù? Quali sono quelle aree nella penombra? Che cosa ti sta dicendo Gesù? Non tapparti le orecchie. Sii violento contro il peccato. E aggrappati violentemente a quella grazia che per Gesù è costato così tanto, ma l'ha fatto con così tanto amore per te e per me. Il versetto si conclude, dice Gesù: io sono la luce del mondo, chi mi segue, ripeti con me, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Chi mi segue? Chiesa, per te che sei qui per la prima volta, per te che sei qui per la centesima volta, non è sufficiente ammirare quella luce. Non è sufficiente vederla. Non è sufficiente sapere che c'è. Bisogna seguirla. Bisogna credere nella luce. Bisogna arrendersi a quella luce, bisogna, come abbiamo sentito la settimana scorsa, correre in quella luce. Sapete, nelle tenebre come fai a correre? Ma noi siamo una chiesa che Gesù ha chiamato per correre verso i nuovi territori, per correre verso quelle conquiste, per correre verso quelle persone che hanno bisogno di quella luce e noi gliela possiamo dare. Dobbiamo correre, ma per correre non c'è spazio per le tenebre nella nostra vita, non c'è spazio per il compromesso, non c'è spazio per il peccato. Questa è l'esortazione che Gesù dice: chi mi segue non camminerà mai, mai più nelle tenebre, perché avrà la luce della vita. È un'esortazione, seguimi, con una promessa, ed è la promessa che ci dà quella spinta per poter dire no alle tenebre e correre verso la luce. È quella promessa di non camminare mai più sotto quella schiavitù, che ci dà la forza di seguire Gesù anche quando ci costa, anche quando dobbiamo fare delle rinunce, anche quando, e puoi mettere tu la motivazione per la quale non stai seguendo Gesù in tutto e per tutto. Perché la verità è questa: la luce non ci fa vedere solo le cose, non ci fa vedere solo il peccato, le cose brutte nella nostra vita, ma la luce, Gesù, ci fa vedere pure tutte le benedizioni, tutti i regali, tutta quella vita abbondante che Gesù è venuto per darci. Gesù, la luce, rivela quella che può essere la nostra vita libera dal peccato. La luce ci rivela il proposito che io e te abbiamo su questa terra. La luce ci rivela quello che ci aspetta dopo la vita su questa terra. La luce ci rivela tutte quelle benedizioni, tutto l'amore, tutto quell'affetto tutta quella gelosia che Gesù ha per te e per me. Seguirlo, non camminare nelle tenebre ma nella luce, fa tutto questo, mette in risalto tutto questo e molto di più. Vi ricordate, e vi prometto che sto per finire, vi ricordate quell'interruzione in Giovanni 8 della donna adultera? Ve la ricordate o ve la devo dire da capo? Ce la ricordiamo. Non è un'interruzione, perché Gesù, ed è stata una rivelazione così bella, Gesù quando ha detto alla donna va e non peccare più, io l'ho sempre detto come me, allora, mo ti ho perdonato, non ti abbiamo lapidato, mo va e però non peccare più, cioè per cortesia, non giochiamo. È diverso. Gesù dice in realtà quel suo va è un seguimi. Seguimi e non peccare più. Seguimi, io sono la luce del mondo, ma non solo del mondo. Ha detto a quella donna, io sono la tua luce. Non solo del mondo, ma la tua. Andiamo. Andiamo insieme. Seguimi e non camminerai più nelle tenebre, perché avrai la luce della vita. Quel va non è un va, è vai, dai, andiamo, seguimi, perché io non voglio che pecchi più, perché ti amo così tanto, ma tu da sola peccherai, ma se mi segui, se sei piena di me, se sei un tutt'uno con me, se sei un tutt'uno con me, non c'è peccato. Non c'è peccato troppo attraente. Non c'è situazione troppo difficile. Non c'è distanza da Dio troppo sopportabile. Se siamo un tutt'uno con Gesù, se siamo un tutt'uno con Gesù, è Lui che ci porta lontano dalle tenebre. E per me diventa l'unica cosa possibile e immaginabile da fare, quella di camminare con Lui nella luce, lontano dalle tenebre, e quella di portare con me quante più persone possibili su quel sentiero illuminato da Gesù. Non c'è compromesso troppo comodo, non c'è bugia troppo necessaria quando sei un tutt'uno con Gesù. Non c'è una relazione troppo compromettente quando sei un tutt'uno con Gesù. Allora, Chiesa, è il tuo desiderio? Io lo so che è il nostro desiderio, ma abbiamo bisogno di essere un tutt'uno con la luce del mondo. E la luce per me e la luce per te. Amen? Perché non ci alziamo tutti in piedi? E tu lo sai quelle aree della tua vita che hanno bisogno della sua luce. E io voglio pregare per te. Voglio pregare per noi. Volete? A quanti ha parlato questo messaggio? Quanti onestamente dicono, ho capito, mi fa schifo questo peccato. Voglio allontanarmi da questo peccato, ma da solo non ce la faccio. Voglio che Gesù irrompa con la sua luce incandescente, perché mi sono stancata delle lampadine a LED. Signore Gesù, tu vedi queste mani e tu soprattutto conosci il nostro cuore. E Signore Gesù, io ti ringrazio perché tu sei la luce del mondo e perché tu sei la luce nella mia vita e nella nostra vita. Sei la luce nella vita della tua Chiesa. E Gesù, io ti prego che tu ci possa aiutare ad odiare il peccato, ad odiare le tenebre, a renderci conto di quanto grandi sono quelle tenebre se non siamo un tutt'uno con te. E Gesù, aiutaci, aiutaci Padre, a non accontentarci di nessuna apparenza di bagliore, di nessuna luce a risparmio, ma aiutaci a ricercare te sempre di più nella nostra vita come unica fonte di luce, Gesù, grazie perché tu vuoi irrompere nella nostra vita con la tua luce potente, con la tua luce gloriosa. Gesù, grazie perché ci riveli dove sbagliamo, ma non per condannarci, ma per santificarci, per renderci più simili a te, per far sì che la tua chiesa possa essere pura, senza macchia, senza difetto, pronta ad aspettarti e pronta ad essere una tua ambasciatrice, pronta ad essere una tua testimonianza per tutte queste persone che ancora non ti hanno ricevuto come luce. Per questo, Gesù, io ti prego di perdonare i nostri peccati. Ti prego, Signore Gesù, ti prego, Signore, di portare la tua luce, la tua santità in quelle aree della nostra mente, in quelle aree del nostro cuore dove vigono ancora le tenebre. Sii tu la luce, Gesù. Amen.